l'altra Europa. Ben ritrovati da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta su Radio 24, sono 6 minuti dopo le 12, questo è l'appuntamento settimanale, primo dell'anno con l'altra Europa che dedichiamo a un racconto che cerchiamo di farlo diverso, cerchiamo di farlo un po' atipico, cerchiamo di raccontare l'Europa non solo della strettissima attualità, ma anche l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, l'Europa delle opportunità e delle possibilità. Sappiamo le criticità, sappiamo i problemi che ci sono, abbiamo ben consapevolezza di tutto questo, però crediamo che l'Europa abbia bisogno anche di un altro racconto e noi cerchiamo di farlo. Euronetplus.eu è il portale di riferimento del network a cui apparteniamo, Euronet Plus, appunto, tante radio diverse, tante lingue diverse per raccontare un percorso comune. Le coordinate invece per seguirci sulle nostre bacheche virtuali sono @euronetplusr24 oppure il mio account personale su Twitter e su Facebook, Federico Taddia, lì tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a sfiorare. Si parte ogni settimana un viaggio diverso. Oggi il punto di partenza è la Lituania. Sarà una puntata un po' particolare quella di oggi, prima puntata del 2015. Guarderemo avanti da vari punti di vista, parleremo di Europa ed Expo, parleremo dell'agenzia Giovani, di tutto quello che ha fatto e di quello che andrà a fare. Faremo un viaggio in Antartide, anche sarà una sorpresa, andremo a parlare là dove c'è tanto freddo, dove ci sono ricercatori italiani ed europei che stanno anche sacrificando mesi della loro vita per ricerche applicate che possono poi cambiare le nostre di vite. Però partiamo anche da chi ha colto il nuovo anno con un cambiamento, quei cambiamenti che poi incidono sulla tua quotidianità, come l'introduzione dell'euro. La Lituania è il 19° paese a essere entrato in zona euro da giovedì. La moneta è entrata ufficialmente in circolazione e andiamo a scoprire che cos'è la Lituania oggi, andiamo a scoprire come ci si è preparati a questo momento e a quelle che sono state le prime reazioni. Tutto questo lo facciamo con Paulos Jurkevičius, spero di aver pronunciato bene il cognome, giornalista lituano da 20 anni, collabora in Italia per raccontare la Lituania agli italiani e viceversa, ed è socio professionista dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Ciao Paulos, buon anno. Buongiorno, grazie anche a te. Allora, era un momento atteso quello dell'arrivo dell'euro in Lituania o era dato un po' per scontato, era dato per inevitabile? Che attesa c'era? Ma diciamo, tanta attesa non lo era. Perché? Perché è il secondo tentativo di agganciare la zona euro. Il primo tentativo abbiamo fatto nel 2007, prima di quella terribile crisi economica, e mancavano pochissime cifre sulla destra dallo zero per arrivare, insomma, a centrare i criteri di Maastricht. Mancava pochissimo, ma credo che quella volta lì non c'era ancora tanta credibilità sulla Lituania. Dopo Lettonia ed Estonia mancava la Lituania, adesso c'è. Come sta la Lituania oggi? Se tu dovessi fare una fotografia della tua nazione, quali sono le immagini salienti, le immagini che è importante vedere e anche le sfumature che è importante evidenziare? Direi la Lituania adesso è uno dei paesi floridi, con un'economia abbastanza forte. Da una parte, tra l'altro ci sono comunque dei timori soprattutto legati al presente, all'instabilità geopolitica che c'è vicinissima a noi, Russia, Ucraina. Questo anche un pochetto, se non di più, avrà influenzato anche le aspettative dell'euro. Se prima c'erano degli euroscettici, è chiaro perché comunque c'è una certa fragilità interna dell'economia, macroeconomia. Se a Roma, non so, andiamo al mercato, il primo prezzo è il più basso, vediamo 99 centesimi, boh, in Lituania dovrà essere 29 centesimi o anche di meno. Quindi la gente avrà problemi di adattarsi al cambio della valuta, sicuramente. Ma quindi è comunque una nazione che da una parte guarda verso Mosca, all'alto, al nord, guarda ai cugini, appunto Estonia, Lettonia, poi c'è la Polonia, lì vicino è un po' la Polonia la nazione faro in questo momento, quella un po' il traino emotivo anche verso l'Europa? Ma diciamo sì, tutta la regione baltica guarda Mosca, però guarda con un po' di timori, un po' di sospetto, direi più che legittimo, seguendo la nostra storia. E poi anche abbiamo, più che altro guardiamo forse il nord, la Scandinavia, infatti il sistema bancario lituano è molto legato alla finanza scandinava, visto che quasi tutte le banche che abbiamo sono di provenienza, di origine scandinava, svedese, finlandese, danese. E tu sei in Italia in questi giorni, però immagino abbia avuto la possibilità di leggere un po' le prime pagine dei quotidiani lituani, le prime reazioni, il polso a poche ore dall'introduzione della moneta, hai colto qualche aspetto sì. particolare? Ma la Lituania diciamo è un paese rispetto a grandi stati, è un piccolo paese, 3 milioni e mezzo di abitanti, ancora forse meno, con però la centralità della capitale di Vilnius, e quindi è una città molto europea, molto direi occidentale. Lì gli abitanti di Vilnius erano abbastanza preparati, abbastanza informati. Quello che ho visto qualche difficoltà era in periferia, infatti piccoli negozi di campagna alimentari diventavano anche punti di un cambio valute, e lì dove veramente forse il livello di vita è molto più basso rispetto alla capitale, lì sorgeranno dei problemi anche psicologici di vedere la nuova valuta, anche perché la nostra vecchia valuta, che ormai non c'è più, l'ITAS, è una grande nostalgia soprattutto per le vecchie generazioni, un simbolo della lotta all'indipendenza. Hai tenuto tu qualche banconota, ricordo? L'hai già messa nel cassetto? Sì. Sicuramente, su 10 lire abbiamo due piloti, Darius e Ghirena, due piloti lituani che i primi rischiarono di attraversare l'Oceano Atlantico prima della Seconda Guerra Mondiale, i nostri eroi, diciamo. Paolo, l'altra faccia invece, in questi giorni hai scritto di Italia e dell'Italia per qualche quotidiano lituano? Ti è capitato? Di cosa hai parlato? Ma il mio focus, il mio interesse soprattutto adesso è indirizzato al reparto di enogastronomia. Ho scritto dell'anno nero dell'olio italiano. Okay. Perché è un prodotto che si vende molto bene, gli lituani hanno la grande stima dell'olio extravergine italiano, purtroppo è successo quello che è successo e mi chiedevano proprio di spiegare i vari perché. Ho capito. Grazie davvero Paulus, e buon anno, buon lavoro, e insomma che sia un anno pieno di soddisfazione e anche di olio italiano, visto che lo difende di tanto cibo di cui scrivere. Grazie, ciao e buon sabato. Un Europost, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Assistenti ai lavori parlamentari, cercasi. Parlate due lingue ufficiali dell'Unione e vorreste trasferirvi a Bruxelles? Siete laureati e avete alle spalle almeno 3 anni di esperienza professionale? Il Parlamento europeo è alla ricerca di personale esperto, multitasking e motivato per organizzare il calendario quotidiano dei lavori. L'Ufficio europeo di selezione del personale ha indetto infatti un nuovo bando di concorso per 30 assistenti parlamentari, aperto a tutti i cittadini europei in possesso delle necessarie competenze. La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e alcune prove di esame. Il bando scade il 13 gennaio 2015. Tutti i dettagli collegandovi al sito europa.eu/epso. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, che in questo momento per qualche minuto diventerà l'altro mondo, perché andiamo veramente, ci stiamo collegando con l'altra parte del mondo, stiamo infatti andando in un puntino, è poco più di un puntino, guardando sulla cartina, stiamo andando in Antartide, stiamo andando nella base italo-francese, nella stazione Concordia, Dome Sea, là nell'Antartide, dove ci sono un gruppo di scienziati, un gruppo di ricercatori che stanno studiando il passato, il presente, il futuro del nostro paese, una missione scientifica, e tra i protagonisti c'è un trentino, si chiama Lorenzo Moggio, alla sua seconda spedizione, e mi chiedo scusa in anticipo perché ci saranno un po' di secondi di ritardo ovviamente tra la domanda e la risposta, ma potete capire anche che è un collegamento tecnicamente non facilissimo. Diamo comunque il benvenuto a Lorenzo Moggio, che è qua con noi. Ciao Lorenzo, buon sabato. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, grazie della possibilità di connessione. Come avete capito c'è un po' di ritardo nella comunicazione, ma d'altro canto siamo quasi al polo, quindi in una zona molto remota e i satelliti fanno quello che possono. Ecco, localizzati, dove siete, che temperatura c'è, cosa c'è attorno a voi in questo momento? Dunque, descrivo con poche semplici parole il paesaggio e l'ambiente climatico che ti circonda. Bianco, freddo, piatto, luce 24 ore su 24, meno 27 gradi centigradi. Fiato corto e aria e gola secca. Poche parole, tanti aggettivi per descrivere nel modo migliore un mondo dove è estate, dove tu ci starai fino a novembre. Adesso scopriremo anche a fare cosa. La missione fa parte del programma nazionale di ricerche in Antartide, un progetto finanziato dal MIUR che vede la responsabilità scientifica del CNR, quella di attuazione logistica dell'ENEA, un progetto dove c'è anche tanta Europa e dove fate anche esperimenti, siete una sorta di cavie per l'ESA, per l'Agenzia Spaziale Europea. Tante ricerche in parallelo, tu in particolare, Lorenzo, di cosa ti occupi? Io in particolare mi occupo di fisica e chimica dell'atmosfera, per conto dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna, del CNR di Bologna. Tuttavia qui i settori di ricerca sono innumerevoli, si va dalla glaciologia, famoso è stato il carotaggio Etica, risalente a circa una decina di anni fa, con il quale si è potuto ricostruire il clima fino a 800.000 anni fa, ma ci sono anche ricerche di astronomia e astrofisica, sismologia, geomagnetismo e biologia umana, come appunto quella dell'Agenzia Spaziale Europea, come giustamente citavi. Io in particolare mi occupo di misure di radiazione solare, quindi mi occupo di misurare i bilanci radiativi alla superficie terrestre, cioè quanta, diciamo, sostanzialmente energia, i bilanci energetici del pianeta in questa regione. E tante ricerche. Oltre a ciò mi occupo. Scusami. No, no, prego, prego, continua, scusami. Oltre a ciò mi occupo dell'osservatorio meteorologico, quindi ogni giorno un'operazione che svolgo ogni giorno, per esempio il radiosondaggio meteorologico, ovvero il lancio di un pallone riempito di elio con attaccata una radiosonda che misura temperatura, pressione, umidità relativa, velocità e direzione del vento, e che serve per, diciamo, è un puntino che viene utilizzato dai moderni supercomputer per elaborare le previsioni meteorologiche in tutto il pianeta. Tante ricerche anche finanziate con fondi europei, ricordiamo che siete a migliaia di chilometri dal paese più vicino, dalle coste più vicine. Lorenzo, ma com'è la vita lì, com'è la quotidianità? Puoi darci qualche esempio del cosa significhi vivere lì, ora che è estate, ma anche tra qualche mese, quando non ci saranno più 24 ore di luce, ma saranno 24 ore di buio? In quanti siete e com'è la quotidianità? Certo, dunque, sì, una piccola puntualizzazione appunto per quanto riguarda i progetti di ricerca europei. Sì. Tra pochi giorni ci sarà un volo proveniente dalla stazione americana McMurdo che si occuperà di fare un survey GPS, un survey radar, scusate, per la ricerca di un nuovo sito per effettuare un nuovo carotaggio ancora che permetterà di andare ancora più indietro nel tempo nella costruzione del clima del pianeta. Si tratta di un progetto europeo, quindi finanziato con fondi europei, e speriamo vada a buon fine tutto quanto. Ma questo significa significa andare sotto, scavare quanto nel ghiaccio con questo nuovo carotaggio? No, significa il survey si tratta semplicemente di uno strumento, un radar che manda delle onde elettromagnetiche a seconda di come queste vengono modificate dal substrato, cioè dal ghiaccio, dalla calotta di ghiaccio, si riesce a capire quanto in profondità, della densità del ghiaccio, e quanto in profondità si può andare a scavare, quanto ghiaccio c'è. Questo quindi è una prima fase di ricerca del sito. Dopodiché il carotaggio vero e proprio, per esempio il carotaggio EPICA di cui parlavo prima, si è spinto fino a 3200 metri di profondità, quindi è stata estratta non una carota unica, però in vari pezzi ovviamente, sono stati estratti 3200 metri di ghiaccio, e se noi immaginiamo di dividere a strati questa carota e immaginiamo come si forma la neve e il ghiaccio, andando in profondità andiamo nel passato, cioè andiamo a recuperare neve, bollicine d'aria al suo interno che sono provenienti dall'atmosfera del passato, e quindi con l'analisi di queste bollicine di aria del ghiaccio si può ricostruire la storia climatica del pianeta. Raccontaci invece la storia climatica della tua quotidianità, come si fa a sopravvivere lì? Allora, la quotidianità qui si divide diversi periodi, l'estate per così dire, cioè adesso che va più o meno da novembre a febbraio, in cui c'è un team molto più allargato, adesso siamo circa 58 persone, 30 francesi e 28 italiani, divisi tra scientifici e logistici. Nel periodo estivo le attività sono molto all'esterno, si aggiornano le strumentazioni, si installano nuovi strumenti, vengono un po', viene fatta un po' tutta la manutenzione straordinaria, mentre a partire da febbraio rimarremo solamente in un piccolo ristretto equipaggio di sole 13 persone, 6 francesi, 5 italiani, un inglese e uno svizzero, quindi team europeo, sì, assolutamente. E porteremo avanti le operazioni di routine e di manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi porteremo avanti tutta la strumentazione scientifica, ma non solo, perché ovviamente abbiamo bisogno di mangiare, di avere comunque un servizio informatico efficiente, di avere assistenza sanitaria, quindi oltre ai ricercatori abbiamo un team di logistici che si occupano della base vera e propria, quindi abbiamo un idraulico, un elettricista, un capo centrale, un meccanico, un informatico, un medico e un cuoco, per quanto riguarda la sezione logistica. Ma d'inverno si mette il naso fuori dalla base? Perché immagino che sarà freddissimo, immagino venti a velocità inimmaginabili. L'inverno, il clima cambia completamente a livello di temperatura soprattutto. L'estate le temperature medie estive viaggiano tra i 25 e i 30-35 gradi sotto zero, mentre l'inverno le temperature ci spingono addirittura fino a 80-85 gradi sotto zero, con parecchie settimane con temperature inferiori ai 70 gradi sotto zero. Oltre a ciò si aggiunge il periodo di buio, ai primi di maggio il sole tramonta per l'ultima volta e sorge nuovamente a fine agosto circa, quindi abbiamo 3 mesi di assenza di sole. Questo non vuol dire buio totale, perché comunque nelle ore centrali della giornata abbiamo dei crepuscoli all'orizzonte che creano delle bellissime sfumature tra l'altro, questa è quindi la situazione climatica durante l'inverno. Tuttavia noi usciamo tutti i giorni, perché la strumentazione si trova tra 1 e 2 chilometri di distanza dalla base, dobbiamo percorrere questa distanza a piedi, vestendoci adeguatamente con vari strati, con tanti strati di vestiti, e quindi la passeggiata quotidiana è proprio d'obbligo per lavoro, diciamo. Lorenzo, grazie davvero per averci dato questo assaggio. Buon anno a te, a tutto il tuo team, a tutti i tuoi compagni di avventura. Buona estate, buon inverno, ma magari quando lì sarà buio, per farvi compagnia ci risentiamo, così ci aggiorni sullo stato delle ricerche, va bene? Questo molto volentieri. Mi unisco agli auguri di buon anno anche a tutti gli ascoltatori e anche a te, Federico. Grazie davvero. www.italiantartide.it è il sito di riferimento, oppure www.pnra.it per avere maggiori informazioni. Adesso un Europossit e ci fermiamo. La pubblicità poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europossit. 5 mesi di formazione con il Comitato delle Regioni a Bruxelles. Il Comitato delle Regioni è l'organo consultivo che rappresenta gli enti locali dell'Unione Europea e offre ogni anno l'opportunità di effettuare tirocini formativi presso la sede di Bruxelles della durata di 5 mesi. La prossima sessione si svolgerà tra il 16 settembre 2015 e il 15 febbraio 2016 e per parteciparvi è necessario presentare domanda entro il 31 marzo 2015. I requisiti necessari sono la laurea triennale e la conoscenza di una lingua ufficiale dell'Unione e almeno una delle lingue di lavoro del Comitato, inglese e francese. Per tutte le informazioni visitate il sito del Comitato cor.europa.eu. L'altra Europa. Ancora buon sabato, questa è sempre l'altra Europa. Questa è una canzone di Jovanotti che, secondo me, neppure Jovanotti si ricorda di averlo scritto e cantato. Ma insomma, ci piaceva il tema, volevamo introdurre così il mondo dei giovani. Abbiamo ripescato un vecchio Jovanotti. Allora, @ Federico Taddia per seguirci sia su Twitter sia su Facebook, con i vari link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Vi ho detto che sarebbe stata una puntata che avrebbe guardato un po' indietro, un po' avanti, per prepararci a questo 2015, e sono ben contento di ricominciare l'anno insieme a Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ciao Giacomo, buon anno. Ciao Federico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. E momento di fare un po' il punto di quello che è successo nel 2014, ma già momento per rilanciare, nel senso che c'è poco tempo, per fortuna, per fermarsi a guardare quanto è stato fatto, visto che c'è tanto da fare. Un 2014 però dove i numeri parlano tanto per quello che siete riusciti a fare con Erasmus Plus e non solo, vero Giacomo? Ma per noi è un anno positivo, non lo dico sull'onda di un entusiasmo che è stato anche il primo anno del ruolo da direttore generale, lo dico guardando i numeri e le cose che abbiamo fatto. Noi siamo un'amministrazione dello Stato che ha impegnato il 99,8% dei fondi europei assegnati, penso che sia, se non un caso unico, sicuramente un record importante. E l'abbiamo fatto riuscendo a distribuire risorse in tutto il territorio nazionale, dalle grandi città ai più piccoli comuni, e soprattutto abbiamo fatto evitando un meccanismo di distribuzione semplice, ma facendo in modo che progetti che liberassero energie, idee, spunti e soprattutto la voglia di fare ragazzi fossero premiati, e quindi sotto questo punto di vista è un anno positivo. In più abbiamo fatto un importante semestre europeo con appuntamenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo finanziato per 3 milioni di euro comuni e province per progetti legati al lavoro, al co-working, alla green economy, e poi penso, non voglio fare l'elenco completo, basta andare sul nostro sito, sui nostri social, per si vede quello che siamo riusciti a fare in quest'anno, che non è stato semplice. Assolutamente, tanta formazione e tanta informazione, è stato anche questo, al di là dei fondi elargiti, è stato questo il valore aggiunto di questo anno per l'Agenzia Nazionale Giovani, che da ente un po' aleatorio è diventato un qualcosa di concreto, con veramente tanti meeting e tante possibilità di confronto. Giacomo, il 9, e tanta trasparenza anche, come accadrà per esempio il 9 gennaio quando verranno pubblicati i risultati dell'ultimo bando in scadenza per il 2014, giusto? Esatto, il 9 ci sarà il comitato, la valutazione è già finita, quindi per questo sappiamo di aver impegnato già delle risorse. Poi il 9 ci sarà il comitato, mi ci tengo a precisare che la scelta che abbiamo fatto noi è stata di fare un comitato tutto di esterni, sì. istituzionale di esterni, e faremo lì un punto non soltanto alla lira, al centesimo preciso, ma faremo anche un punto su tutte quelle che sono le attività che si chiudono e quelle che sono le attività che nel 2015 mettiamo in cantiere. Voglio sottolineare quello che dicevi tu prima, tantissima informazione e comunicazione, siamo all'inizio del nuovo programma Erasmus Plus, dura 7 anni e questo è il momento di farlo conoscere per evitare che poi arriviamo all'ultimo anno e non ci troviamo con le persone che sono informate. Noi abbiamo fatto oltre 50 incontri in tutta Italia, raggiungendo migliaia e migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi, e quindi dando a tutti la possibilità di conoscere non tanto e non solo l'agenzia, quanto le opportunità e le possibilità che l'Europa mette a disposizione ai ragazzi. Giacomo, ma dal tuo osservatorio, che da questo punto di vista è un osservatorio privilegiato, in che direzione va la creatività dei giovani italiani? Ti ha colpito qualcosa in particolare? Sì, nel senso che intanto posso dire che dal mio punto di vista è una creatività molto molto molto forte e molto diffusa, più di quello che ci si possa immaginare, non chiusa soltanto alle grandi città o ai centri in cui ci si immagina che ci siano delle particolari contesti che lo favoriscono, anche in piccolissimi comuni, in realtà anche distanti da luoghi decisionali, c'è una grandissima capacità non soltanto di creatività ma anche di aggregazione, di progettazione. E qui i settori in cui principalmente questa va sono quelli dell'innovazione tecnologica, della green economy e soprattutto tutte quelle attività e iniziative che hanno un respiro continentale. Ormai tutti quanti i ragazzi, la gran parte dei ragazzi capiscono che non ci si può più limitare al proprio territorio, ma vale sempre più il ragionare, il motto che dice pensare globale, agire locale. Insomma, quindi per fortuna una nuova generazione che è molto più avanti rispetto alle generazioni precedenti, nella capacità di pensare europeo. Giacomo, un obiettivo, un buon per il 2015 ce l'hai? Due obiettivi. Il primo, confermare il risultato di quest'anno, cioè l'impegno che anche i fondi del 2015 siano tutti impegnati e tutti impegnati nella maniera giusta, non tanto e non solo, ripeto, per spendere, ma per fare buona spesa. Il secondo obiettivo è quello di attuare la nuova direttiva che il governo nazionale ci ha dato. Era 2 anni che l'Agenzia Nazionale non andava a direttiva, adesso abbiamo una direttiva che amplia un po' di competenze, di attività e ci dà degli spazi ma non in più, un segnale non soltanto di fiducia da parte del governo, del ministro Poletti, ma anche di responsabilità, e quindi vogliamo non soltanto limitarci a gestire Erasmus Plus ma fare bene le cose, i compiti a cui siamo stati chiamati. Anche questo dopo il 9 gennaio faremo un punto su le cose che dobbiamo mettere in cantiere. Agenziagiovani.it è il sito di riferimento. Un grazie a Giacomo D'Arrigo. Ciao Giacomo, buon anno. Ciao Fede, grazie a te. Ciao ciao. Europost-it. Stage retribuito a Bruxelles con i Green. Un'occasione imperdibile per tutti i laureandi e neolaureati vicino alle idee dei Green. La GEF, Green European Foundation, cerca tirocinanti. Il programma di stage nella sede di Bruxelles offre la possibilità di collaborare con le organizzazioni europee e con le fondazioni nazionali Green di tutta Europa. Il lavoro consisterà nell'organizzazione di workshop e conferenze e nella redazione di pubblicazioni, documenti e contenuti per il sito. I tirocini sono retribuiti, possono durare dai 3 ai 6 mesi e sono a cadenza ciclica. Per conoscere la prossima deadline, visitate il sito gef.eu e selezionate Internship Program nella sezione About. Mettere al centro i giovani ci sembrava il modo migliore per celebrare questo inizio del 2015 dell'altra Europa. Un'altra bella storia con un altro italiano protagonista. Diamo il benvenuto a Stefano Felician, l'unico italiano eletto nel board dell'European Youth Forum, 31 anni ed è stato eletto appunto in questo importante organo. Ciao Stefano, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno a tutti e un caro saluto da Mosca. Da Mosca? Cosa fai a Mosca? Sono qua per, a parte motivi di vacanza, e ho degli incontri col Forum Nazionale dei Giovani Russo, che è pure membro dello European Youth Forum, nonché un partner abbastanza stretto del Forum dei Giovani Italiano. Certo. Allora Stefano, diamo qualche coordinata. Ricordiamo che cos'è e quali sono le funzioni del Youth Forum? Allora, lo European Youth Forum è un'organizzazione giovanile, molto grande, molto importante, riunisce in sé 99 organizzazioni membre, di cui circa una trentina sono forum dei giovani e il resto sono le più importanti organizzazioni giovanili europee. Per farci un esempio, dai giovani socialisti ai giovani Lazio Gay Europeo, movimenti religiosi, movimenti studenteschi, è veramente una piattaforma molto grande e diversa. Sì. E rappresenta la voce dei giovani europei, non solo presso le principali istituzioni politiche, Commissione, Parlamento Europeo, il Consiglio, eccetera, eccetera, ma anche a livello ulteriore mondiale. Per esempio, è membro uno degli advisor dell'ONU, quindi una piattaforma molto importante. E quali sono i tuoi compiti? Di cosa ti dovrai occupare all'interno del board? Nel board noi siamo 11 persone che proveniamo da origini molto diverse, geografiche e associative. Io di mio mi dovrò occupare di diritti dei giovani, youth rights, sì. E mi occuperò di anti-discrimination, cioè tutte quelle forme di discriminazione nei confronti di minoranze, eccetera, eccetera. Un tema purtroppo abbastanza crescente in Europa, vista la situazione che conosciamo. E poi mi occuperò di rapporti con le organizzazioni membre e poi di cooperazione con l'Euromediterranea, che è un altro tema abbastanza importante. Ogni board member ha dei portafogli, come se fossero dei piccoli, diciamo, ministri, ecco, diciamo così. Quindi sarai un po' italiano, un po' europeo, un po' mondiale, perché insomma i vostri gli interlocutori sono veramente le istituzioni ai vari livelli. Stefano, tu sei giovanissimo, hai 31 anni, hai già una bellissima esperienza sia di studi sia di posizioni importanti che hai occupato in vari enti, in vari movimenti. E cosa si prova ad essere lì, ad occupare quel posto, ad avere la responsabilità di migliaia di giovani che tu rappresenti? Beh, devo dire che prima di tutto è un grandissimo onore, anche perché io ho cominciato la mia attività di rappresentante nella mia scuola superiore a Trieste nel 2000, quindi dopo 14 anni essere eletta al Forum Europeo, che è il massimo che un giovane può fare, passando nel mezzo dal Forum dei Giovani Italiano, ecco. È sicuramente un incarico molto bello, molto interessante, si possono fare molte cose e soprattutto è un modo concreto per far vedere che c'è una parte dei giovani italiani che invece che protestare o lamentarsi o proporre soluzioni demagogiche cerca di fare qualcosa di attivo e costruttivo per l'Unione Europea e per il futuro di giovani, di gente della mia età e di persone più giovani. Che cos'è per te oggi l'Europa? Beh, l'Europa è una grandissima opportunità e non lo è solo per me, lo è stato anche per le generazioni passate. Troppo spesso, io vengo da tre studi, come dire, storico, anche geopolitico, troppo spesso ci dimentichiamo che i nostri nonni ci parlano di guerre, mentre i nostri genitori e noi parliamo di viaggi, di cooperazione, di persone che hanno studiato all'estero, di possibilità economiche, di crescita. Questa è l'Europa di oggi, secondo me. Cercando di allontanare demagogie purtroppo poco elettoralmente felici, ma purtroppo di visione corta, ecco. Forumnazionalegiovani.it oppure yachtforum.org, queste le coordinate per seguire tutte le attività del forum. Grazie davvero Stefano, complimenti, ci ritroveremo grazie sicuramente qui all'Altra Europa. Un saluto a te, buon anno a tutti quanti. Anche a te, buon anno e buon lavoro. Ciao. Grazie, arrivederci. Un Europostit, il traffico poi ancora qua con l'Altra Europa. Europostit. Culturability, spazi di innovazione sociale. Avete nel cassetto un progetto di innovazione culturale e sociale che promuove benessere e sviluppo sostenibile? La Fondazione Unipolis, in collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani, ha indetto un bando per iniziative volte a riqualificare aree e luoghi degradati per farne occasioni di crescita culturale e sociale, ma anche di lavoro per i giovani. Il bando, rivolto a organizzazioni non profit e altri soggetti associativi composti in prevalenza da under 35, è disponibile sul sito culturability.org e scade il 28 febbraio 2015. L'altra Europa. Questa è la musica che accompagna un video, che è la storia di Silvia e Alex, due personaggi, un ricercatore, un agricoltore, una ricercatrice, un agricoltore, scelti come testimonial dall'Unione Europea per avvicinarsi ad Expo 2015, puntata che guarda avanti. Il 2015 ci porta dritti dritti a Expo, dove anche l'Unione Europea avrà un ruolo fondamentale, e proprio di questo ne vogliamo parlare con Matteo Fornara, direttore del padiglione dell'Unione a Expo 2015. Buongiorno Matteo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie a tutti e buon anno. L'Unione Europea all'Expo, perché? Cosa farà vedere? Cosa mostrerà di sé? Non ci sono già le singole nazioni? Sì, però anche l'Unione Europea vuol far sentire la sua presenza, cercando innanzitutto di comunicare i messaggi dell'Unione Europea, che sono legati anche all'intervento precedente che ho ascoltato nel vostro programma, cioè alle opportunità per i giovani e anche al grande sforzo che l'Unione Europea fa non solo sui temi dell'Expo, che sono quelli dell'alimentazione, ma più in generale per la convivenza dei cittadini in Europa e nel mondo. E poi portiamo avanti un programma scientifico molto solido che abbiamo articolato negli ultimi mesi e si svilupperà attorno a molti eventi che avranno luogo a Expo e anche in altre location a Milano e oltre, per contribuire un po' al dibattito che l'Expo deve lanciare sui grandi temi legati all'alimentazione, non solo a livello nazionale, non solo a livello europeo, ma a livello globale, perché nel 2050 avremo 9 miliardi di persone che abiteranno il pianeta Terra e ci sono delle risposte da dare. E il 5 gennaio credo ci sarà, quindi dopodomani, la prossima, una visita ai cantieri, una conferenza stampa anche per fare un po' una presentazione dello stato dei lavori. Tutto pronto? No, la conferenza stampa la faremo nel corso del mese. Ah, scusa. Quindi entro il prossimo mese andiamo a vedere un po' i lavori in cantiere, perché noi il nostro padiglione è situato dentro a Padiglione Italia, sì, che è sull'asse del Cardo, uno dei due assi principali del sito dell'Expo. Abbiamo voluto questa location e ringraziamo molto le autorità di Expo e le autorità italiane per aver accettato di mettere l'Unione Europea al centro anche geografico, diciamo, dell'Expo. Non volevamo essere tra due paesi stranieri, diciamo, tra due paesi terzi, ma volevamo dimostrare con la nostra presenza quanto l'Unione Europea sia importante per un paese come l'Italia, così come per tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, sulle tematiche di Expo. L'abbiamo ottenuto e quindi il nostro padiglione sarà dentro a Padiglione Italia. I lavori sono cominciati, procedono, e noi abbiamo bisogno di tempo per procedere all'installazione delle nostre infrastrutture, perché la nostra storia, quella di Alex e Silvia a cui accennavi, è molto tecnologica, guarda molto ai giovani, molto interattiva, quindi ha bisogno anche di tempo per essere preparata. Sarà uno spettacolo nel nostro padiglione. Sì, mi piace questo entusiasmo, ma Matteo, il tuo stesso entusiasmo c'è anche a Bruxelles. A Bruxelles c'è voglia di Expo, c'è attesa, c'è aspettativa, c'è titubanza. Diciamo, qual è l'umore che hai colto? Diciamo che noi come Commissione Europea, insieme al Parlamento Europeo, che è l'altra grande istituzione, e anche ad altri attori, abbiamo già svolto delle azioni di lancio proprio della nostra presenza a Expo. Per esempio a novembre il Presidente del Parlamento Europeo Schulz con la Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini, la Commissione appena entrata in carica, hanno presentato non solo il nostro padiglione ma anche il padiglioni dei 21 paesi dell'Unione Europea che avranno il loro padiglione a Expo, proprio per dimostrare questa collaborazione che esiste dell'Unione Europea con i paesi a livello nazionale. Quindi diciamo che l'attesa anche a Bruxelles sta crescendo. Avremo, come ho detto prima, circa 200 eventi che saranno organizzati dai servizi della Commissione, dal Parlamento, dalle agenzie dell'Unione Europea e da altri attori, eventi di tipo scientifico ma anche culturale, di promozione, di comunicazione, E quindi diciamo che adesso l'attesa sta crescendo. Speriamo che anche dai paesi dell'Unione Europea poi arrivino parte almeno dei visitatori a Expo, perché come sapete a Expo sono attesi circa 20 milioni di, o più di 20 milioni di visitatori. I cinesi hanno già prenotato molti biglietti, speriamo che vengano anche gli europei. Europa.eu/Expo 2015 per avere un po' di anticipazioni. Grazie a Matteo, direttore del padiglione dell'EU a Expo 2015, Matteo Fornara, ma ci ritroveremo sicuramente qui per così avvicinarci insieme ad Expo. Ciao, buon lavoro. Senz'altro, grazie e buon 2015 a tutti, anche a Expo. Certo, grazie davvero. Europost-it. Una nuova app rivolta a studenti e insegnanti per comprendere al meglio il funzionamento dell'Unione Europea. Siete alla ricerca di materiale didattico interessante e stimolante sull'Unione Europea? Siete giovani e giovanissimi e vorreste capire come è nata, come opera l'Unione e quali sono le sue politiche? La rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha lanciato una nuova app rivolta a insegnanti e studenti, dove poter trovare tutte le risorse che state cercando. L'angolo degli insegnanti contiene ogni tipo di materiale dedicato a quattro diverse fasce d'età. Nell'angolo dei bambini, invece, si può imparare a conoscere i propri diritti di europei giocando, guardando cartoni animati e video, con l'aiuto di Oli, Ana e dei loro amici. Per saperne di più, collegatevi al sito europa.eu/teachers-corner e europa.eu/kids-corner oppure alla pagina Facebook della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ambiente, terra, cibo, sostenibilità, tanti temi di cui sentiremo, stiamo sentendo spesso parlare in vista di Expo. Vogliamo proporvi un ulteriore contributo: sabato 10 gennaio presso il Parco delle Energie Rinnovabili, siamo in Umbria dove c'è questa bellissima esperienza di altre sostenibilità possibili. Si tiene una giornata di formazione sul cambiare vita, sul cambiare vita e cambiare stile di vita, un programma intero che potete trovare su ilcambiamento.it e una parte del pomeriggio del sabato sarà proprio dedicata a scoprire esperienze europee, proposte concrete di cambiamenti possibili. Di tutto questo ne parliamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Paolo Ermani, presidente dell'associazione PAEA, tra gli ideatori del quotidiano web Il Cambiamento e coautore insieme a Simone Perotti del libro Ufficio di Scollocamento. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Benvenuto a voi. È davvero un'altra Europa e non solo quella che voi ipotizzate, quella che cercate, quella che proponete con le tante attività in essere che da anni anche svolgete. In particolare sabato e domenica ci sarà questa due giornate di studio presso il Parco delle Energie Rinnovabili che mi ricordi dov'è la cittadina, scusa che mi sfugge? È vicino a Melia, in provincia di Terni, in Umbria. Provincia di Terni, perfetto. E una giornata di formazione con un focus particolare sull'Europa. L'Europa è più avanti rispetto all'Italia? Su alcuni argomenti di sicuro sì. Noi quello che facciamo in questi due giorni è uno studio un po' particolare perché diamo moltissimi esempi concreti. Il corso si chiama Cambiare vita e lavoro, istruzioni per l'uso, cioè significa che ci sono tantissimi esempi, moltissime persone che stanno facendo delle scelte diverse concretamente da tanti anni e che dimostrano che un'alternativa è praticabile da subito e è alla portata di tutti. Non ci sono problemi di chi c'ha i soldi, chi certe cose le può fare, non è assolutamente così, tutte queste alternative sono alla portata di tutti a prescindere dal censo e parliamo di progetti che ci sono ormai da 40 anni, posso fare alcuni esempi di per esempio un centro per le tecnologie alternative che c'è in Galles che proprio quest'anno ha festeggiato i 40 anni di attività che si occupa di energie rinnovabili, di risparmio energetico, che all'inizio degli anni 90 aveva già 1 milione di visitatori, fa corsi di formazione di ogni tipo relativo a queste tematiche ed ha un successo molto interessante. Oppure un'altra struttura che c'è in Germania di cui parliamo, in cui io ho lavorato 5 anni, una struttura che si chiama Centro per l'Energia e l'Ambiente, che lavora dal 1981, è vicino alla città di Hannover, e che è fra gli artefici delle misure di contenimento energetico degli edifici, che poi sono state riprese dalla legislazione nazionale. Questi pionieri all'inizio, che provavano a fare certe cose che all'inizio sembravano un po' matti, invece hanno realizzato dei risultati eccezionali, che poi sono stati anche recepiti attraverso tutto quello che è stata poi tutta la fase delle certificazioni energetiche, certo, le case passive, le case a basso consumo energetico. Paolo, 30 secondi per una terza e ultima, un terzo e ultimo esempio. Un ultimo esempio può essere quello di un ecovillaggio che c'è sempre in Germania, Siebenlinden, nato nel 97, che si autoproduce frutta e verdura per il 70%, e in Germania del Nord è una cosa particolarmente eccezionale, e che ha case in Valle di Paglia, in terra cruda, e ha una gestione sociale e culturale incredibile, veramente qualcosa di eccezionale, che vale la pena di visitare e di cui noi parliamo diffusamente in questo corso, perché facciamo capire che anche con pochi soldi e non per forza guadagnando chissà cosa si possono realizzare dei progetti bellissimi in cui stare benissimo, avere una qualità della vita molto alta e finalmente avere anche un senso rispetto alla propria vita, perché tante le persone che vengono ai nostri corsi sono smarrite, vogliono trovare un senso, non sanno bene più perché stanno lavorando o che lavoro cercare e quali sono le prospettive che hanno. Beh, noi cerchiamo nel nostro lavoro di dare queste prospettive, perché di prospettive ce ne sono, di speranze ce ne sono. E Insomma, do il sito www.pere.umbria.it oppure ilcambiamento.it per tutte le informazioni. Grazie davvero Paolo, in bocca al lupo per questo weekend di formazione. Un grazie a voi come sempre per essere stati in compagnia dell'Altra Europa, un grazie a tutta la squadra, Gianmarco Ferronato, Margherita Aina, Giorgio De Luca, oggi tutti qua con me. L'appuntamento è a sabato prossimo con l'Altra Europa, mentre domattina alle 9 sarò qua con Si Può Fare. Buon weekend da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.